Capitolo 17. La valle dell'ombra. Passato il primo sgomento, tutti accettarono l'inevitabile e cercarono di farsi animo per affrontarlo, sostenendosi l'un l'altro con quella raddoppiata affezione che nelle ore dolorose lega più strette le famiglie. Trattennero le lacrime e ciascuno fece quanto poteva perché quell'ultimo anno di vita della povera Beth fosse meno triste. La sistemarono nella camera più bella e vi riunirono tutte le cose che le erano più care: i fiori, i quadri, il suo piano, la piccola tavola da lavoro, i suoi gattini. Vi andarono a finire anche i libri migliori del babbo, la poltrona della mamma, il tavolino di Joe, gli schizzi più belli di Amy. E ogni giorno Meg condusse in pellegrinaggio d'amore i suoi bimbi a portare un po' di sole alla zia Beth. John, senza dir niente a nessuno, mise da parte una sommetta per avere la gioia di non farle mancare mai la frutta che amava. In cucina la vecchia Anna preparava instancabile le cose più delicate che possono stuzzicare un appetito capriccioso e mentre cucinava le veniva da piangere. D'oltreoceano giungevano piccoli doni e lettere vivaci e vivificanti che pareva portassero le auree tepide e fragranti dei paesi che non conoscono l'inverno. E Beth, adorata come un santo di famiglia nel suo tabernacolo, se ne stava tranquilla ma sempre attiva, poiché niente poteva cambiare quella sua indole dolce e altruista, anche preparandosi a lasciare la vita, ella cercava di renderla più bella a quelli che rimanevano. Le sue povere manine erano indebolite, ma non oziavano, e uno dei suoi piaceri era di fare qualche piccolo oggetto per gli scolaretti che ogni giorno passavano e ripassavano sotto la sua finestra, di gettare giù il paio di mezzi guanti per due manine paonazze dal freddo, il puntaghi per una piccola madre di molte bambole, il nettapenne per il giovane calligrafo che era ancora alle prese con le aste, l'album per incollarvi le figurine ritagliate, insomma ogni sorta di quegli oggetti che piacciono ai ragazzi. Se Beth avesse atteso una ricompensa, l'avrebbe trovata nei piccoli volti sorridenti che sempre si levavano verso di lei, con un cenno di saluto e un sorriso, e nelle curiose letterine che le giungevano, piene di macchie di inchiostro e di riconoscenza. I primissimi mesi furono felici. Beth volgeva lo sguardo in giro e diceva: «Com'è bello!» Tutti stavano intorno a lei, nella camera soleggiata, i due piccini di Meg a sgambettare e a strillare sul tappeto. La mamma e le sorelle sedute a lavorare, il babbo che leggeva con la sua bella voce qualcuno di quei buoni e vecchi libri che parevano miniere di parole consolanti, vere oggi come secoli fa. Un piccolo servizio religioso in cui la voce paterna del sacerdote insegnava al suo gregge le dure lezioni che tutti hanno da imparare e cercava di dimostrare come l'amore possa avvivare la speranza e la fede render possibile la rassegnazione. Sermoni semplici che andavano dritti all'anima, perché nella religione del ministro c'era il cuore del padre e la voce che ogni tanto gli tremava aggiungeva eloquenza alle parole che diceva o leggeva. Quei giorni di pace furono la preparazione alle ore tristi che si avvicinavano, perché a poco Beth cominciò a dire che l'ago era tanto pesante e lo depose per sempre. Si stancava di parlare, le dava fastidio vedersi intorno le persone. Il dolore la voleva tutta per sé. Il suo spirito tranquillo era penosamente turbato dai mali che tormentavano la povera carne. Ahimè, che giornate insopportabili, che notti senza fine, che strazio per il cuore e che preghiere disperate, quando coloro che più l'amavano la videro protendere le povere mani scarne, supplicando: «Aiutatemi, aiutatemi!» e sentivano che nessun aiuto era nelle loro umane possibilità. Dolorosa eclisse di un'anima serena, fiera lotta di una vita giovane con la morte. Ma eclisse e lotta, grazie al cielo, durarono poco. Passata la naturale ribellione, fu ancora la pace di prima, più bella che mai. Con la rovina del fragile corpo, l'anima di Beth si fortificò. Parlava poco, ma si sentiva che era pronta, che la prima pellegrina chiamata era anche la più degna, la più preparata, che ormai le andava ad aspettare sull'altra riva. E già l'occhio di lei cercava le apparizioni luminose che scenderebbero a riceverla quando vi giungesse. Da quel momento che Beth le disse: Mi sento più forte quando ci sei tu. Joe non la lasciò più un'ora. Dormì sopra un sofà nella stanza, destandosi sovente per ravvivare il fuoco, per dar da mangiare alla povera inferma, per soccorrerla, per assisterla in tutti i modi. Beth, paziente, non desiderava mai nulla, non voleva essere di peso, ma tutto il giorno Joe le stava accanto, gelosa di tutti e orgogliosa di essere lei, l'infermiera preferita. E furono ore preziose per Joe, perché le fecero un gran bene. Diedero al suo cuore quell'ammaestramento di cui aveva bisogno, una gran lezione di pazienza che non avrebbe più dimenticata. Le arricchirono l'anima di carità per tutti, destarono in lei quello spirito di bontà che sa perdonare, di fedeltà al dovere che fa parer leggero il fardello più greve, quella fede sincera che nulla teme e che non conosce dubbi. Tante volte, destandosi, Joe trovava Beth occupata a leggere in quel famoso libricino ormai consumato, o l'udiva canticchiare sommessa per ingannare la notte insonne, o la trovava col volto fra le mani e con le lacrime che le scorrevano fra le dita trasparenti. Allora Joe la stava a guardare immobile, troppo assorta nei suoi pensieri per poter piangere. Sentiva che in quella sua maniera semplice, Beth cercava di abituarsi al pensiero di dover dire addio a quella misera vita che pur le era cara, di prepararsi alla vita futura con quelle parole benedette di conforto, con quelle preghiere rassegnate, con un eco di quella musica che tanto amava. Ciò che Gio vedeva le giovava più della predica più dotta, dell'inno più fervente, della più calda preghiera, poiché i suoi occhi, rischiarati dalle lacrime, e il cuore intenerito dal dolore, riuscivano a comprendere tutta la bellezza della vita di Beth, povera di eventi e di ambizioni, ma piena di quelle virtù vere che danno un dolce aroma e fioriscono anche nell'arida polvere. Di quell'abnegazione per cui gli uomini e le donne quaggiù meritano di essere i primi e le prime lassù, la vittoria cui possiamo tutti aspirare. Una notte Beth, nel rovistare fra i libri che aveva accanto al letto sul tavolino per scovare qualche cosa che le facesse dimenticare un po' quella stanchezza morale che era insopportabile quasi più del dolore, sfogliando quel Pellegrinaggio del Cristiano, che era stato sempre uno dei suoi libri preferiti, trovò un foglietto tutto scribacchiato e riconobbe la calligrafia di Joe. In testa c'era Abet. Lo scritto era mezzo cancellato dalle lacrime. Povera Joe. Guarda come dorme. Sarebbe un peccato svegliarla per chiederle il permesso di leggere. Del resto lei mi fa sempre vedere tutto, sono certa che non ci bada. Così, disse Beth fra sé, mentre guardava la sorella addormentata sul tappeto, con le molle accanto, pronta a svegliarsi appena il ciocco nel caminetto crollasse. Dello scritto quasi illeggibile per le lacrime che l'avevano bagnato, Beth riuscì a decifrare solo alcune parole e frasi. Ma bastavano a capire che erano versi rivolti a lei che attendeva, paziente e serena, la gran luce, a lei che era la benedizione della casa percossa dalla sventura. Gioie e dolori del mondo si frangevano ai suoi piedi, quali onde brevi alla riva, e Gio le chiedeva, dono supremo, il retaggio delle sue virtù. La pazienza angelica che regge al dolore senza un lamento, il coraggio che della Via Crucis fa un sentiero di fiori, la verità che ama e perdona. Meno duro sarà l'addio supremo, meno atroce lo strazio di quel giorno. La perdita diverrà un guadagno, la tenebra luce. O tu che mi precedi nella via, dolce sorella, aspettami di là. E lasciami intanto guide sicure, angeli custodi, la speranza e la fede che mi traggono per mano a te. I versi non erano troppo belli, ma a Beth fecero bene più di ogni altro parto letterario di Joe. La rassicurarono incredibilmente. Ella non aveva che un rimpianto, aver fatto così poco, e invece adesso Joe le assicurava che la sua breve vita non era stata inutile, e che la sua morte non recherebbe ai suoi cari la disperazione che la temeva. Mentre Beth stava immobile col foglietto fra le mani, nel caminetto il ciocco, consumato nel mezzo, crollò e fece balzar su la sorella che si affaccendò a ravvivare il fuoco. Povera Poi tornò accanto al letto, dove credeva di trovare Beth addormentata. «No, cara, non dormivo», le disse Beth. «Ma sono tanto felice, vedi cosa ho trovato? L'ho anche letto, sapevo che tu non me lo avresti proibito. Dunque è proprio vero, Joe? Tutto questo ho rappresentato io per voi?» E Beth attendeva la risposta ansiosamente. «Oh sì, Beth, proprio!» E la testa di Joe si posò sul guanciale accanto a quella dell'inferma. «Allora non mi sembra più di aver vissuto inutilmente. No, Joe, io non valgo tanto quanto tu dici qui, ma ho cercato di fare del mio meglio e ora che è troppo tardi per cominciare a fare di più, sapessi che consolazione mi dà la certezza che mi volete tanto bene e che a qualche cosa ho servito. Più di chiunque altro al mondo, Beth. Una volta credevo che non avrei voluto lasciarti partire, ma ormai mi vado accorgendo che non ti perdo e che tu sarai per me sempre più vicina. Quella cosa non potrà dividerci, sebbene così sembri. È vero, lo so, e non ne ho più paura adesso perché so che rimarrò sempre la tua Beth e che mi vorrai bene anche più di ora. Tu prenderai il mio posto, Joe, quando non ci sarò più. Per il babbo e per la mamma tu sarai tutto. Si appoggeranno a te e tu non mancherai loro. Quando ti parrà duro lavorare o lottare da sola, ricordati che io non ti dimenticherò e sarai più felice di tenere il mio posto fra loro, che non di scrivere dei capolavori e di girare tutto il mondo. L'amore è la sola cosa che ci possiamo portare con noi quando ce ne andiamo e rende la fine più facile. Cercherò Beth. In quel momento Joe rinunziò a tutte le sue ambizioni per un'ambizione nuova, la più bella di tutte. Ogni altra aspirazione divenne una cosa da nulla in confronto alla beatitudine, al conforto di credere nell'immortalità dell'amore. Vennero le giornate di primavera. Il cielo si fece più chiaro, la terra più verde. Sbocciano i fiori, ritornano gli uccellini, in tempo per dire addio a Beth. La bimba stanca, ma piena di fede, che si attaccò alle mani che l'avevano guidata per tutta la vita, alle mani del babbo e della mamma, che ora la guidavano per la Valle dell'Ombra e la consegnavano all'infinito. Raramente, fuori che nei libri, le persone in punto di morte pronunciano parole memorabili e coloro che hanno assistito a molti trapassi di anime sanno bene che la fine arriva con la stessa semplicità e naturalezza con cui viene il sonno. Beth sperava che la marea si invertirebbe senza difficoltà. E nell'ultima ora della notte, quella che precede l'alba, sopra quel seno dove aveva tratto il primo respiro, ella trasse quietamente l'ultimo, senza parole di addio, ma con un estremo sguardo di amore e un lieve sospiro. Fra le lacrime e le preghiere, le mani di sua madre la composero con tutta la loro tenerezza per il lungo sonno che nessun dolore sarebbe venuto a rompere mai più. Gli occhi di sua madre ebbero la consolazione di vedere nel volto adorato succedere la bella serenità alla dolorosa pazienza che da tanti giorni straziava il loro cuore. E tutti sentirono e ne ringraziarono il cielo, che per la loro diletta la morte era stata un angelo buono. Spuntò al mattino e per la prima volta dopo mesi il fuoco del caminetto si spense. Il posto di Joe rimase vuoto e nella stanza regnò il silenzio. Ma sopra un ramo, non lontano, un uccellino cantava lietamente e le palle di neve si affacciavano a guardare dentro la stanza, inondata dal sole di primavera, che si posava come una benedizione sul volto sereno. Un volto che esprimeva tanta quiete, tanta pace. Capitolo 18. Come si impara a dimenticare? La predica di Amy fece bene a Lori, ma naturalmente egli non doveva riconoscerlo che molto tempo dopo. È raro che gli uomini facciano altrimenti. Se dei due quella che consiglia è la donna, il consiglio il Signore del Creato non lo accetta, se non quando si è convinto che tale appunto era la sua intenzione. Allora lo segue e se le cose vanno bene non riconosce alla consigliera che una metà del merito. Se invece vanno male, allora è generoso e glielo lascia tutto. Lori tornò dal nonno e per qualche settimana fu tanto premuroso e pieno di riguardi che il vecchio disse che l'aria di Nizza gli aveva fatto un gran bene e conveniva tornasse a respirarla. Al signorino la cosa sarebbe andata molto a genio, ma dopo la strigliata ricevuta, per tirarlo di nuovo laggiù non bastavano nemmeno gli elefanti. L'orgoglio dunque lo trattenne e quando stava per cedere si rinfrancò nella sua decisione, ripetendosi le parole che gli avevano fatto più impressione. Ti disprezzo. E poi, perché non fai qualche cosa di grande che la obblighi ad amarti? A forza di ripensarci, Lori finì col confessare a se stesso che era stato egoista e poltrone. Ma quando un uomo ha un gran dolore, bisogna che lo sfoghi in qualunque modo, tanto che gli passi. L'amore che Gio aveva respinto era morto ormai, ben morto, e Lori ne portava il lutto e sempre l'avrebbe portato, già, si intende. Ma non c'era ragione di mostrarlo a tutti. Non era riuscito a farsi amare da Gio? Ebbene, poteva farsi rispettare e ammirare da lei con qualche atto che mostrasse come il no di una ragazza non voleva dire per lui la vita sciupata. L'aspirazione a fare qualcosa di bello l'aveva sempre avuta e non era necessario il consiglio di Amy. Ancora non aveva fatto niente, è vero, ma aspettava che quel tale amore infelice fosse messo debitamente sottoterra. Dopodiché egli era pronto a celare il suo cuore infranto e tirare innanzi. Goethe, quando aveva un'afflizione o una gioia, ne faceva un canto. Lori decise di ricorrere alla musica. Avrebbe composto un requiem da straziare l'anima a quella crudele, da sciogliere in lacrime chi l'udiva. Perciò, appena il vecchio notò, come avveniva a periodi regolari, che suo nipote tornava a farsi irrequieto e musone, lo rimandò in viaggio. Lori andò a Vienna, dove aveva amici nel mondo musicale, e si mise al lavoro col fermo proposito di farsi notare. Ma o fosse che il suo dolore era troppo grande per incarnarsi nella musica, o che la musica era cosa troppo tenue, troppo eterea, per risollevare un'anima oppressa da una pena mortale, ben presto gli si accorse che il requiem era impresa eccessiva per lui, almeno per il momento. Era evidente che lo spirito non si trovava ancora a punto per lavorare e produrre, che le idee avevano bisogno di chiarirsi e di fissarsi un poco. Sovente in mezzo a un motivo triste e solenne si cacciava irresistibile un'arietta di danza e Lori doveva mettersi a canticchiarla. Da questo era breve il passo al ricordo del carnevale di Nizza, specialmente di quel francese grosso e tondo e per il momento addio musica seria, addio temi drammatici. Allora tentò l'opera. Già, perché alla fede del principiante nulla sembra impossibile. Ma anche qui incontrò difficoltà impreviste. L'eroina doveva essere Jo, ed ecco Lori cercare nella memoria reminiscenze e visioni romantiche del suo amore, ma la memoria si mostrava infedele. Pareva anch'essa animata dallo spirito perverso dell'eroina, e di Jo non ricordava che le stranezze, gli errori, i capricci, gliela presentava negli aspetti e nelle occupazioni meno sentimentali. A batter tappeti coi capelli avvolti in un fazzolettone, a barricarsi dietro il cuscino salsicciotto, a gettare la doccia fredda sulla sua passione quando egli era lì lì per esprimerla. E allora una risata irrefrenabile mandava a spasso la visione pensosa che era lì lì anch'essa per farsi musica. Non voleva proprio saperne quella Jo di essere messa dentro un'opera e Lori era costretto a rinunziarci. Che tormento quella benedetta ragazza, concludeva, e si piantava le dita entro la chioma scoraggiato. Provò anche a guardarsi intorno se mai trovasse un'altra donzella meno intrattabile da eternare nel canto. Qui la memoria lo servì subito, e molto bene, evocandogli una fata che aveva mille volti, ma sempre i capelli d'oro, avvolta entro una nube vaporosa, gli ondeggiava davanti agli occhi della mente in una confusione di rose, di pavoni, di cavallini bianchi e di nastri azzurri. All'insistente apparizione gli non dava un nome, ma l'accettava come protagonista del dramma. Le si andava affezionando sul serio, adornandola di tutti i doni e di tutte le grazie, scortandola immune e immacolata, attraverso prove che avrebbero annientato qualsiasi donna mortale. Grazie a questa ispirazione gli tirò innanzi qualche tempo benissimo, ma a poco il lavoro andò perdendo ogni fascino per lui. A metà della composizione Lori si distraeva, vagava con la penna in mano dietro altre fantasie, oppure piantava ogni cosa e usciva a zonzo per la città a caccia di idee nuove, o per concedere un po' di riposo ristoratore al suo cervello, che in quell'inverno pareva si trovasse in uno stato di vaga indecisione. Certo è che non andava molto innanzi, faceva poco ma pensava molto e intanto aveva la sensazione di un cambiamento che suo malgrado avveniva in lui. Forse è il genio che sta per entrare in ebollizione. Lasciamolo fare e vediamo cosa ne verrà fuori. Ma aveva il vago sospetto che non si trattasse di genio, ma di qualcosa molto più comune. Ogni giorno egli era più insoddisfatto di quella vita inconcludente, aspirava a fare qualche cosa sul serio, a mettercisi anima e corpo. Finì col giungere alla conclusione assennata che non basta amare la musica per essere compositori. Ritornando da una magnifica esecuzione di un capolavoro di Mozart al Teatro Reale una notte, si mise a sfogliare la sua composizione. Eseguì alcune delle pagine migliori, levando ogni tanto lo sguardo ai busti di Mendelssohn, di Beethoven e di Bach, che gli rispondevano con occhiate benevole. D'un tratto si mise a lacerare i fogli del suo lavoro, uno ad uno, e quando l'ultimo gli volò via dalla mano, gli disse con molta serietà, parlando a se stesso: «Ha ragione Amy, il talento non è genio e tale non può diventare. Mozart ha sgonfiato la mia vanità come Roma ha sgonfiato la sua. Non intendo essere un ciarlatano, ma cosa farò adesso?» La questione si presentava difficile e sulle prime egli rimpianse di non avere bisogno di lavorare per il pane quotidiano. Ora più che mai pareva proprio giunta l'occasione per andarsene al diavolo, secondo la sua espressione energica, molto denaro e nulla da fare. E il diavolo è notoriamente pronto a trovare occupazione alla gente che è in quelle condizioni. Il povero Lori aveva tante tentazioni di fuori e di dentro, ma resisté relativamente bene perché, per quanto gli apprezzasse la libertà, apprezzava altrettanto l'onore. Sicché quella tale promessa al nonno e la sua decisione di volersi mantenere sempre in grado di poter guardare in faccia le sue amiche e assicurare loro tutto bene, lo salvarono e lo mantennero sul buon sentiero. Qui probabilmente qualche persona scettica dirà: «Non lo credete, la gioventù ha le sue esigenze. Che cosa pretendevano da lui quelle buone amiche? Che facesse miracoli?» Beh, padrone chi vuole di non crederci, ma la verità è come l'abbiamo raccontata. Quei miracoli la donna è capace di ottenerli e noi siamo convinti che a forza di fede, non prestando orecchio alle insinuazioni dello scetticismo, potrebbe ottenere persino quello di rendere migliore tutti gli uomini. I ragazzi restino ragazzi e più a lungo resteranno, meglio sarà. La gioventù sia pure talvolta sconsiderata, ma le madri, le sorelle, le amiche buone possono aiutare a far sì che le follie giovanili degli uomini si mantengano nei giusti limiti e impedire che essi si rovinino irreparabilmente. E questo le donne lo potranno fare se si convinceranno e si mostreranno convinte che è possibile all'uomo mantenersi fedele a quelle virtù che all'occhio della donna lo fanno apparire veramente uomo. Se questa è un'illusione femminile, lasciatecela finché è possibile. Perché senza di essa quasi tutta la bellezza e la poesia della vita se ne vanno, e non è più lecito sperare in una generazione di bravi ragazzi, di ragazzi di cuore che amano la madre più di se stessi e non si vergognano di dirlo. Lori calcolava che l'impresa di scordare il suo amore per Gio avrebbe richiesto tutte le sue forze per anni, ma con gran sorpresa si accorse che la cosa diventava ogni giorno più facile. Sulle prime non ci voleva credere. Si inquietò con se stesso e non capiva, ma il nostro cuore è strano e capriccioso, e il tempo e la natura fanno ciò che vogliono a dispetto nostro. Il cuore di Lori non voleva più saperne di soffrire. La ferita si ostinava a guarire con una rapidità che lo stupiva, e ormai, invece che per dimenticare, lo sforzo ci voleva per ricordare. Egli non aveva previsto che le cose prendessero questa piega, non vi era preparato. Si vergognava di se stesso. Si stupiva della propria leggerezza, sentiva un misto di delusione e di sollievo all'idea di potersi rialzare tanto presto da un colpo così tremendo. Fece di tutto per ravvivare il fuoco che non c'era più. Non ritrovava che un tepore, non spiacevole, che lo riscaldava e gli faceva bene, ma che non era più febbre. Dovette riconoscere che la sua passione di ragazzo si trasformava adagio adagio in un sentimento più buono, in una tenerezza ancora poco triste ed accorata, ma che certamente col tempo gli sarebbe passata completamente, lasciando in lui un affetto fraterno che durerebbe inalterato per sempre. Quando gli passò per la mente quella parola, fraterno, Lori sorrise e levò lo sguardo sul ritratto di Mozart. Sicuro. Lui, che era un grand'uomo, non potendo avere una delle due sorelle, si prese l'altra e fu felice. Queste parole Lori non le disse, ma le pensò e depose un bacio sul vecchio anellino. No, pensò anche, io non voglio dimenticare. Non ho dimenticato e non lo potrò mai. Proverò una volta ancora. E se non riesco, allora. Subito prese la penna e scrisse a Joe, dicendole che egli non poteva decidersi a nulla finché c'era ancora un filo di speranza che ella mutasse pensiero. Era possibile? Voleva lei? Glielo dicesse e lui tornerebbe subito e sarebbero felici. Finché attese la risposta, egli si dedicò a non far nulla, ma con energia, perché era pieno di febbre e di impazienza. La risposta arrivò finalmente e gli mise il cuore in pace circa una cosa. Joe non poteva e non voleva. Ella era tutta per Beth e l'amore non voleva più neanche sentirlo nominare. Lo esortava quindi a trovare la felicità con un'altra, ma di lasciare sempre nel suo cuore un posticino per Joe, la sorella affezionata. Nel poscritto lo pregava di non dire ad Amy che Beth stava peggio. Amy doveva tornare a primavera e non era necessario rattristare la fine del giro in Europa. Tempo ce n'era volendo, ma Lori doveva scriverle spesso e fare in modo che non sentisse la solitudine, la nostalgia o la preoccupazione. Sicuro, subito, povera piccina, sarà un triste ritorno il suo, temo. E Lori aperse la scrivania, come se scrivere ad Amy fosse la conclusione naturale del discorso lasciato e interrotto qualche settimana prima. Ma quel giorno la lettera non la scrisse. Nel rovistare per trovare la carta più bella, si imbatté in una cosa che gli fece cambiare programma. In un angolo del cassetto, fra certe fatture, passaporti e carte varie, egli trovò, gettate alla rinfusa, parecchie lettere di Joe. In un altro scompartimento tre biglietti di Amy, i quali richiamavano dolcemente al pensiero le roselline morte che riposavano fra le loro pieghe. Un po' pentito, un po' sorridente, Lori mise insieme tutte le lettere di Joe, le spianò, le piegò a dovere, ne fece un pacchetto che mise in un piccolo scompartimento tutto per loro. Poi stette un minuto pensoso a guardare quel tale anellino e alfine, lentamente, se lo sfilò dal dito. Lo depose sul pacchetto delle lettere, chiuse a chiave e andò a sentire la messa cantata a Santo Stefano, con l'impressione di assistere a un servizio funebre. Un gran dolore non lo provava, ma il sentire musica sacra gli pareva un'occupazione molto più appropriata quel giorno che scrivere lettere alle signorine. Però la lettera ad Amy partì ben presto ed ebbe pronta risposta perché Amy la nostalgia l'aveva e glielo confessava con una franchezza, un abbandono deliziosi. La corrispondenza continuò, attiva e regolarissima, nelle prime settimane di primavera. Lori vendette i busti dei grandi musicisti, adoperò il manoscritto dell'opera incominciata per accendere il caminetto e alfine tornò a Parigi con la speranza che fra non molto qualcosa sarebbe accaduto. Sentiva una gran tentazione di andare a Nizza, ma voleva esservi chiamato. E Amy non lo chiamava, perché proprio in quei giorni la stava facendo per conto proprio certe piccole esperienze che non le sarebbe piaciuto troppo condurre sotto gli occhi curiosi del nostro ragazzo. Era tornato Fred Vaughan e subito le aveva fatto la domanda alla quale un giorno lei, senza esitare, avrebbe risposto pronta: «Grazie, sì». Invece ora gli rispose: «Grazie, no». Fu cortese, ma irremovibile, perché quando si trattò di decidere per il sì, le mancò il coraggio e si accorse che ci voleva qualcosa più della ricchezza per corrispondere a una nuova aspirazione che era nata in lei, fatta di tenera, trepida speranza. Si ricordava il volto di Lori quando le diceva: «Fred è un buon ragazzo, ma non è affatto l'uomo che mi aspettavo di vederti scegliere». Questo ricordo le ritornava insistente, al pari di quello di lei che gli diceva, in sostanza, se non a parole: «Voglio fare un matrimonio di interesse». Ora le dispiaceva di aver parlato così. Avrebbe voluto ritirare quella confessione tanto diversa dalla loro comune idea di delicatezza femminile. Non voleva che Lori la credesse senza cuore, un'adoratrice degli idoli del mondo. Adesso, molto più che regina della società, aspirava ad essere amata. Era ben contenta che Lori non la odiasse dopo la brutta confidenza che gli aveva fatta. Egli anzi l'aveva presa in buona parte ed era più gentile che mai. Le lettere di lui erano un gran conforto, poiché quelle di casa erano assai irregolari e non contenevano tutte le buone notizie che avrebbe desiderato. Sicché rispondere a Lori era non solo un dovere, ma un piacere. Quel povero figliuolo era solo e aveva bisogno di essere carezzato un po', visto che Giove aveva sempre quel cuore di pietra. Amy non poteva essere altrettanto dura. Quante fanciulle sarebbero state liete ed orgogliose dell'amore di un caro ragazzo come quello, ma Joe, si sa, doveva essere diversa da tante altre. Perciò ad Amy non rimaneva che essere molto buona con lui e trattarlo come un fratello.